ciu. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Ciu. Francia, ok? Parlo mobile. Ok, va bene, io faccio un attimo di quello che sono. Dai, calma, ti sentiamo dopo, dimmi, dai, fatemi bene perché tu è lì, ci sentiamo su questo canale qua, non c'è problema. D'accordo, fatemi bene. Dopo se va bene, tutti e tre. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, c'è qualcuno?